Letture di Radio 24. L'Eternità, il nuovo libro di Sergio Rizzo, fotografa una triste realtà fatta di politici, sindacalisti, magistrati e funzionari pubblici che da anni approfittano di leggi ingiuste per arricchirsi a spese dei contribuenti. La situazione più vergognosa è quella dei deputati che percepiscono un vitalizio dopo pochi mesi di legislatura, in un paese dove per i comuni cittadini l'età pensionabile diventa sempre più alta e le pensioni sempre più basse. Perché le pensioni degli eletti si continuano a definire vitalizi può sembrare inspiegabile. Forse per pudore, tale è la distanza siderale che ancora separa i trattamenti previdenziali dei politici da quelli delle persone comuni. Azzardiamo, la vera ragione ha a che vedere con le tasse, perché il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, meglio noto come testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce uno sconto fiscale per i vitalizi rispetto alle pensioni. L'IRPEF viene calcolata infatti sull'importo lordo, ma detraendone la quota riferibile ai contributi versati dal percettore. Significa che una fetta pari a circa 1.000 euro dell'assegno mensile è esentasse. Considerando l'esiguità delle contribuzioni a carico dei beneficiari in rapporto all'entità dei vitalizi, è un vantaggio relativo, ma pur sempre un trattamento di favore offensivo nei confronti dei normali pensionati. E se le tasse sono più leggere, le prerogative invece sono le stesse. Al pari delle pensioni, i vitalizi infatti prevedono la reversibilità a favore degli eredi, principio sul quale ci sarebbe probabilmente da discutere, trattandosi di assegni legati a un mandato elettivo. Reversibilità totale e assoluta, con effetto in qualche circostanza oltre i limiti del paradosso. Da 30 anni almeno, chi entra in politica o entra nell'orbita di un partito non rischia certo di rimanere disoccupato, soprattutto con il sistema elettorale delle liste bloccate, che presuppone l'imposizione dall'alto di candidati ai quali viene richiesta fedeltà assoluta al capo. Ci sarà sempre un seggio di periferia, uno strapuntino europeo, un posto nelle miriadi di authority, una poltroncina in qualche ente o società statale, regionale, provinciale o comunale, senza soluzione di continuità. Il vitalizio che avrebbe dovuto difendere i nostri rappresentanti dal pericolo di finire in situazioni di indigenza, o peggio, ricattati da lobbisti, speculatori e imprenditori prepotenti, è diventato tutt'altro. Una rendita sproporzionata nelle dimensioni e ingiustificata nelle modalità con cui viene concessa. Già scandalosa normalmente, addirittura vergognosa quando si moltiplica per due o per tre. Un privilegio ormai anacronistico e inaccettabile, in un paese nel quale si manda la gente in pensione sempre più tardi e con somme sempre più piccole, mentre quella pensione i giovani forse non la vedranno mai. Soprattutto per questo sarebbe necessaria una riforma assai più profonda e radicale di quelle fatte finora dalle Camere, dal Parlamento europeo e da molte regioni. Riforme servite soltanto a salvare capre e cavoli, peraltro senza minimamente sfiorare quel mondo oscuro e grondante ingiustizia sociale dei diritti acquisiti. Basterebbe trattare gli anni durante i quali si ricopre una carica pubblica elettiva alla stregua dei periodi lavorativi. Chi interrompe l'attività per fare il deputato o il consigliere regionale maturerebbe un trattamento previdenziale in continuità con quello precedente e con quello eventualmente successivo, così da avere, al termine di una vita lavorativa composta da diverse fasi, professore universitario, deputato, consigliere regionale e poi di nuovo docente, una sola dignitosa pensione, non due o tre vitalizi, con magari in aggiunta un altro assegno previdenziale regalato per un lavoro che si faceva prima di mettersi in politica. Finiamola con lo scandalo dei contributi figurativi che continuano a correre, delle buone uscite milionarie a raffica, dei vitalizi multipli mascherati da misere pensioncine contributive che comunque maturano dopo soli 5 anni, mentre per la pensione ben più misera di un comune lavoratore, il quale comunque non vedrà un euro se non dopo i 67 anni di età, ce ne vogliono almeno 20. Quel mondo è finito e non tornerà mai più. Che cosa si aspetta a prenderne atto? Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Sergio Rizzo, Da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita. Feltrinelli, 208 pagine, 15 euro.

celebri la natura e l'arte e sacralizzi la musica, trasmutata in sole di primavera. I lupi non li ho mai abbandonati, è ovvio. Ho continuato a interessarmi alle sorti del centro di South Salem e sono sempre stata presente quando si trattava di risolvere un problema. Come avrei potuto voltare loro definitivamente le spalle? Ho l'immenso privilegio di vivere della mia passione e se voglio più di ogni altra cosa condividerla cercando di dare il meglio nella musica, non intendo però rinunciare ad aiutare tutti coloro per cui la natura e la sua protezione costituiscono la linea dell'orizzonte. Sono rimasta vicina a persone che operano come volontari, spesso a titolo gratuito, perché alcuni progetti di ordine ecologico vedano la luce. Avevo pensato che questo dilettantismo avrebbe potuto soddisfarmi, anche se non sono mai riuscita a temperare del tutto la mia indole totalizzante, compulsiva e radicale. Ma l'accumulo di brutte notizie in questioni di ecologia o di protezione dei predatori, o riguardo la sorte di una timida e ultima violetta ai confini del mondo, e adesso i racconti di Carl Wirth, mi portavano a una constatazione. Bisogna scegliere tutto, come diceva Teresa d'Avila. Moltiplicare le proprie forze e farsi in quattro nella guerra contro la menzogna e la distruzione. Se le mie persiane chiuse sul mondo in Svizzera avevano attutito il lamento degli ultimi gorilla sterminati nella quasi totale indifferenza, il grido dei cuccioli delle foche che si continuava a massacrare, i gemiti dei lupi presi in trappola e assassinati, se avevano diluito il sangue degli squali negli abissi degli oceani, non avevano però cancellato nulla di tutto questo. La musica, la mia passione, è pienezza se fa sì che le mie collere e il mio stupore continuino a rinnovarsi e se non smette di ricordarmi che l'uomo emerge ed emergerà sempre dalla natura, che siamo parte dell'universo in costruzione nel quale sono coinvolta e invitata. Perché cosa significa esistere se non far parte dell'universo e del suo movimento? Cosa significa esistere se non partecipare alla vita? Se non volevo più sentire l'antifona del progresso contro il quale non si può nulla, dovevo rientrare nella lotta, o meglio, estendere la carità al mondo vivente e a tutte le creature. Quello che chiamiamo progresso ormai è soltanto un fatalismo pernicioso, l'abbandono del proprio destino a entità sconosciute, avide non tanto di progresso nel senso proprio, ma di denaro e potere. Forse non potremo impedire lo sviluppo scientifico, ma controllarlo sì, perché sia di beneficio per l'uomo come per la natura. Dobbiamo invitare il futuro a conservare il suo posto nel corso delle decisioni e non più occultarlo, negarlo come succede oggi, rimandando alle scoperte a venire, alle quali nessuno si dedica, la soluzione delle catastrofi in corso. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Hélène Grimaud, Ritorno a Salem, Bollati Boringhieri, 190 pagine, 16,50 €. Nella prefazione al suo romanzo Jaber Crow, Wendell Berry scrive: chiunque tenti di spiegarlo, interpretarlo, districarlo, analizzarlo, decostruirlo o capirlo in qualche maniera, sarà mandato in esilio su un'isola deserta in compagnia degli altri interpretatori suoi simili. Meglio non correre rischi, dunque, non tanto per l'isola deserta che magari potrebbe essere una valida alternativa al sovraffollamento delle nostre città, ma per l'idea non certo allettante di passare il resto dei nostri giorni in compagnia degli altri interpretatori. D'altra parte, la storia di Jaber Crow, barbiere di un piccolo centro rurale del Kentucky, non ha bisogno di spiegazioni. È lo stesso protagonista che, ormai anziano, ripercorre le tappe principali della propria vita e trasmette il suo amore per le vecchie tradizioni e la sua difesa della vita rurale contro l'invadenza dell'agricoltura industriale. In queste pagine, Crow parla dei cambiamenti avvenuti nell'immediato dopoguerra e dei rischi legati al processo di meccanizzazione. A quell'epoca comprare un trattore non era cosa insolita. Un mucchio di gente lo faceva. I giovani che erano stati in guerra avevano dimestichezza con le apparecchiature a motore. Il governo teneva corsi serali per insegnare ai veterani le nuove tecniche agricole. Trattori e altre macchine agricole erano diventati di colpo disponibili e la manodopera scarseggiava come non mai. Prese avvio così un meccanismo di causa ed effetto, difficile da interpretare con esattezza, anche a parecchi anni di distanza. Furono le macchine ad allontanare la gente dalle fattorie,